voce d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Mario Puccioni, proteggere il futuro come una pianta da oltre 100 anni. Diana Marino. Fare fertilizzanti fondamentalmente serve a produrre prodotti che vengono venduti per cercare di incrementare le produzioni agricole che altrimenti sarebbero comunque scarse. I terreni hanno degli elementi nutritivi, però chiaramente più passa il tempo, più le colture diventano intensive, più questi terreni si impoveriscono. Chiaramente bisogna reintegrare quello che la pianta asporta dal terreno, questo è fare fertilizzanti fondamentalmente. Combattere la fame nel mondo. I fertilizzanti, sostiene Mario Puccioni, amministratore delegato della Puccioni S.p.A., svolgono un ruolo fondamentale nella sfida, in quanto sono una soluzione fondamentale per preservare la fertilità dei terreni disponibili, garantendo una maggiore produttività. Con il passare del tempo, infatti, il terreno tende a impoverirsi e la crescita delle piante diventa sempre più problematica, con raccolti sempre più scarsi e scadenti. Ecco quindi che per difendere il suolo dal progressivo impoverimento occorre pensare all'utilizzo sostenibile di mezzi come i fertilizzanti, necessari in agricoltura per preservare la fertilità dei suoli, migliorare le condizioni di vita rurali, proteggere gli habitat naturali e ridurre di conseguenza l'impatto ambientale dell'agricoltura. L'azienda di famiglia Puccioni, che da sempre si occupa di fertilizzanti, ha questo ruolo dal 1888. Prima in Italia e ora nel mondo. Il mercato italiano è un mercato interessante, però oggettivamente non è la frontiera, cioè noi viviamo in una nazione dove tutti, chi più chi meno è a dieta, chi più chi meno deve stare attento a quello che mangia, per cui diciamo che la fame, anche se siamo in un periodo di recessione, difficilmente la vediamo o la misuriamo. Oggettivamente i mercati più interessanti sono quelli emergenti a 360 gradi, Africa, Asia, Sud America, paesi anche dell'ex blocco, chiamiamolo sovietico, che per lunghi tempi non hanno mai coltivato le terre, per cui adesso si trovano a inseguire certi deficienze dal punto di vista nutrizionale dei terreni, e per cui adesso applicano molto. Ovviamente i paesi più importanti del mondo da questo punto di vista sono la Cina, gli stessi Stati Uniti sono una nazione estremamente importante, probabilmente l'unico caso di nazione, tra virgolette, chiamiamola del primo mondo o altamente sviluppata, che ha anche una grossissima valenza agricola. Tutti gli altri paesi, insomma, i paesi importanti sono paesi, chiamiamoli, più o meno in via di sviluppo. Una storia di più di un secolo che ha fatto arrivare ovunque la Puccioni S.p.A. Nata oltre 120 anni fa come industria di fertilizzanti per l'agricoltura dedicata alla produzione di perfosfato minerale, oggi l'azienda produce e commercializza in Italia e all'estero una gamma ampia e completa di prodotti per la nutrizione vegetale, in grado di soddisfare tutte le necessità delle colture di interesse agrario in Italia e all'estero. Per un imprenditore, al di là di quello che ti colpisce, è emozionante vedere un proprio prodotto magari a 5, 6, 7 mila chilometri di distanza. Anche strano, perché dice: mamma mia, è possibile che noi siamo così bravi o capaci di portare prodotti in questi posti così remoti del mondo? Sicuramente noti una fiducia nei tuoi prodotti, al quale probabilmente noi nel primo mondo non siamo più abituati. Insomma, ci sono persone che ti ringraziano perché effettivamente la loro vita, ma anche il loro status sociale, è cambiato grazie a questo tipo di prodotti. Ultimamente noi stiamo lavorando molto con anche paesi del Mediterraneo, arabi, Algeria, Tunisia, però noi fondamentalmente abbiamo un mercato più o meno in tutto il mondo. Le nazioni più importanti per noi sono in Sud America, sono la Colombia, l'Ecuador, in Africa, il Ghana, l'Algeria, l'Egitto. La stessa Turchia è un paese estremamente importante da questo punto di vista, e in Asia, Thailandia, India, Sri Lanka, vendiamo anche alle Maldive per intendersi, per cui non c'è un limite a dove poter vendere. Sicuramente, le nazioni che nella nostra testa sono le più povere, vedi effettivamente che dai una mano, sicuramente. In tempo di globalizzazione e crisi, la Puccioni SPA ha portato il suo marchio a essere riconosciuto anche a livello internazionale, dove opera in circa 50 paesi. Mario Puccioni ricorda le dimensioni di questa espansione capillare. La nostra azienda fattura circa 40 milioni di euro e in export ne facciamo circa il 40%. E ogni anno cresce, è uno sforzo importante, è una cosa che ho cominciato io personalmente più per diletto che altro, per avere anche la scusa un pochino di viaggiare. Poi è diventata una cosa impegnativa, infatti ci sono delle persone dedicate a questo tipo di lavoro. Le origini la annoverano tra le imprese centenarie familiari italiane. Fondata in Toscana, a Castel Fiorentino nel 1888 da Luigi Puccioni, la fabbrica prende il suo nome e svolge l'attività nel settore dei fertilizzanti, dedicandosi alla produzione di acido solforico e superfosfato. Nel 1956 furono create le industrie chimiche Puccioni, dal nonno omonimo Mario Puccioni, che iniziò la costruzione dello stabilimento in Abruzzo, in vicinanza al porto di Vasto, in provincia di Chieti. Così il nipote ricorda la svolta, dalla Toscana verso il mare. La terza generazione, cioè mio nonno, che portava lo stesso mio nome, ha deciso con notevole e lodevole spirito imprenditoriale, ha capito che il mondo dei fertilizzanti, della produzione dei fertilizzanti in Italia stava radicalmente cambiando e ha deciso di andare a cercare dei terreni nel sud, dove poter impiantare uno stabilimento per due motivi fondamentali. Oggettivamente, perché al sud negli anni 60 c'erano dei notevoli contributi per coloro che impiantavano delle aziende, e due anche per trovare dei terreni vicino a un porto, perché l'Italia non è produttrice delle materie prime che servono per produrre i fertilizzanti, per cui era necessario ed è necessario tutt'oggi approvvigionarsi. Il metodo più facile e meno oneroso per approvvigionarsi è quello di utilizzare il mare, per cui ha impiantato una fabbrica in un terreno vicino a un porto, ha fatto proprio il periplo dell'Italia a cercarsi dei terreni, ha trovato questi terreni in Abruzzo e lì ha impiantato un'azienda. I lavori di costruzione del sito nel porto di Vasto furono portati a termine a giugno del 1960. La vicinanza al porto ha da sempre rappresentato un vantaggio strategico per il sito produttivo di Vasto, in quanto ha consentito e consente di ottimizzare i trasporti delle materie prime in entrata e dei prodotti finiti in uscita, sfruttando il trasporto via mare delle merci. Ma certe cose, come racconta Mario Puccioni, non sono mai cambiate. Dalla necessaria competenza mantenuta di generazione in generazione alla capacità di sopravvivere nel tempo. Mio nonno sicuramente era chimico, anche mio padre, che non è chimico, però si è laureato in chimica honoris causa a novembre. Tutti hanno delle conoscenze ovviamente di chimica. La chimica dei fertilizzanti fondamentalmente non è cambiata negli anni, sono cambiate le tecniche di produzione, però i metodi di produrre certi tipi di fertilizzanti più o meno sono sempre gli stessi. Non è che c'è una scuola, non si va a scuola di passaggio generazionale. C'è sicuramente, oggi è molto in voga, si legge sui libri come gestire il passaggio generazionale in azienda con fratelli, sorelle, cugini, cognati, chi ne ha più ne metta. Secondo me basta solo un minimo di buon senso e poi insomma tutto si risolve. Oggi Puccioni è un'azienda il cui sito produttivo si sviluppa su una superficie di 110.000 metri quadrati. È certificata dal punto di vista ambientale e della qualità e aderisce al programma volontario di promozione dello sviluppo sostenibile dell'industria chimica, Responsible Care, secondo valori e comportamenti orientati alla sicurezza, alla salute e all'ambiente, nell'ambito più generale della responsabilità sociale delle imprese. Anche la collaborazione con la comunità pedagogica riabilitativa Progetto Vita completa il quadro di azienda concretamente responsabile, senza troppa pubblicità, come sottolinea Mario Puccioni. Siamo entrati in contatto con questa comunità di recupero, facciamo un lavoro sociale, anzi facciamo fare a loro un lavoro, le facciamo lavorare, sono persone che devono essere recuperate, però ecco, una cosa sufficientemente, che ne posso dire, normale, cioè nel senso che abbiamo trovato questa comunità e loro sono come se fossero dei fornitori. È logico che c'è un aspetto sociale che non c'è nel rapporto cliente-fornitore, questo è un fornitore, diciamo, un po' particolare. Però credo che sia anche un dovere, insomma, di un imprenditore fare queste cose. Però ecco, non è una cosa che amiamo manifestare più di tanto, insomma, non è una medaglia da mettersi al petto. Ma alla base c'è il valore della storia dell'azienda. La vera certificazione non è l'ISO 9000, non è il Responsible Care. Secondo me la vera certificazione è il numero 1888, cioè se un'azienda sopravvive per così tanto tempo vuol dire che ci sono delle regole, dei valori, c'è una mission, c'è un qualcosa che va al di là di quelle che possono essere rispetto per le leggi, rispetto per delle procedure. Quella è la vera certificazione, secondo me. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima.